9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Eccoci qua anche questa mattina con le note di The End, dei Doors, l'inizio di Apocalypse Now. Perché? Perché, come vedete, se avete seguito ieri l'andamento del mercato e delle differenze tra i rendimenti, tra i titoli italiani e quelli tedeschi, continuiamo a essere, come dice il verso successivo, lost in a Roman wilderness of pain. E continuiamo sì, perché in realtà non è solo il nome di Mario Monti quello che può fare la garanzia e la differenza rispetto al quadro politico precedente, ma alcune caratteristiche di fondo: come sarà composto il suo governo, che livello di credibilità, che non è fatto solo di autorevole credenziale di tecnico, ma anche insomma di esperienze politiche, di capacità e di qualche precedente caso in cui, oltre ad essere riveriti accademici, ci si è confrontati con quella difficile arte concreta che è l'ammansimento di questa belva particolare che è il politico. Esperienza in questo serve in un paese complesso come l'Italia, e quando la politica è contrapposta in due campi armati che non sentono ragioni e che al governo di emergenza si sono determinati a dire sì, esclusivamente col diritto però di riservarsi un'arma in mano da puntargli la tempia per levargli la corrente, levargli la possibilità di andare avanti e dire poi si torna agli elettori, spazio al suffragio universale calpestato da questi tecnici banchieri. È un po' questa la preoccupazione che ha portato ieri i mercati a far risalire i rendimenti dei titoli pubblici italiani, ed è una preoccupazione poi così malfondata? Non credo. Trovate su tutti i giornali molte pagine, troppe pagine forse, dedicate al tema come deve essere composto, se ci devono essere dei politici, non devono essere dei politici, perché, come molti li vorrebbe insieme al Quirinale, come perché ovviamente i due partiti dalle parti opposte, PD e PDL, non ci pensano nemmeno, perché è molto complicato per loro, significherebbe assunzione di responsabilità, maggiore difficoltà nel cacciarlo quando riterranno, oltretutto minore facoltà di continuare di fronte agli elettori a proporre la contrapposizione verticale gli uni contro gli altri. Contemporaneamente poi portiamoci anche un altro interrogativo. Vedremo ora, speriamo, con le consultazioni oggi con gli imprenditori, i sindacati, le parti sociali, se l'economia, il mondo del lavoro offre al governo tecnico molta più convergenza, come a me pare, rispetto alla divisione della politica, e vedremo se su questo il professor Monti e il suo governo sapranno incardinare quelle 3-4 azioni fondamentali che i mercati ci chiedono e che non hanno ottenuto né visto da luglio in avanti. Ma al di là di questo, c'è o non c'è un problema più di fondo in Europa? Ora che dobbiamo tentare di ritrarci da questo ciglio del dirupo in cui siamo arrivati e cui ci ha condotto il governo uscente, ma in realtà quando anche riuscissimo a compiere quel mezzo metro indietro almeno dal baratro, poi nel 2012 cosa si vede? Cosa c'è alle viste? C'è un euro che riprende forza e credibilità? A me non pare, a me non pare per niente, a me pare al contrario che il 2012 ha tutte le caratteristiche per restare l'anno della crisi dell'euro, perché si vota in Francia, si voterà poi anche in Germania, e in periodi elettorali il difetto della politica non è solo quello della politica italiana, è ovunque questo. Basta vedere cosa succede sui giornali ogni giorno. Ieri mi ha molto colpito che il presidente della Bundesbank sul Financial Times dicesse: no, la BCE non deve mai e poi mai diventare come la Fed, un prestatore di ultima istanza. Mi ha molto colpito che il presidente della European Banking Federation, un altro tedesco, dicesse: no, ma cos'è questa storia? Le banche devono assolutamente private, devono assolutamente continuare a vendere i titoli del debito pubblico dei paesi a rischio, e anzi devono tentare di averne neanche troppi di quelli che poi vanno anche meglio. Ieri al congresso della CDU c'è stato l'intervento del cancelliere Angela Merkel. Tutti i giornali tedeschi oggi dicono che mai un leader della CDU è stato così in pieno controllo di quel partito fin dai tempi di Kohl come la Merkel. E le agenzie e i giornali rilanciano oggi più le parti del discorso di Angela Merkel rassicuranti, quelle che dicono che l'euro non cadrà, che bisogna pensare a un'Europa più politica. Però se andate a leggervi davvero il suo intervento troverete il no netto agli eurobond, il no netto a un rafforzamento delle dotazioni finanziarie dell'FSF, e insomma mi pare che quello sia più importante di qualche parola generica detta a proposito dell'euro. In Olanda il dibattito su un euro del nord è oramai aperto, tanto che ieri al Parlamento olandese il ministro delle finanze Jankees de Jager ha dovuto rispondere a interrogazioni parlamentari sul tema, se fosse vero cioè che al Ministero delle Finanze si preparasse uno, due o tre scenari addirittura intorno alla rottura dell'euro e alla costituzione possibile di un euro del nord, oppure il ritorno al Fiorino. In Parlamento ha risposto non sventendo, ma ha risposto ieri dicendo che non è al corrente dell'esistenza di tale piano. Voi capite che un ministro che dice che non è al corrente significa che davvero al ministero se ne stanno gettando le basi. E insomma, a me sembra, aggiungo, stamattina a Süddeutsche Zeitung trovate un'intervista di Roland Berger. Roland Berger è uno dei fondatori dei più grandi, diciamo, istituti di consulenza economica per multinazionali, e Roland Berger dice: ma tutto questo argomento per il quale poi i tedeschi non potrebbero fare a meno dell'euro, perché l'euro avrebbe fruttato almeno un terzo se non di più della crescita tedesca attraverso il commercio intraeuropeo da che esiste la moneta unica, è così fondato? E Roland Berger a sorpresa dice: no, a me non sembra proprio che sia così fondato. Nella realtà, dice, la Germania è andata bene in questa seconda parte degli anni 2000, dopo essere andata malissimo nella prima parte degli anni 2000 e ha dovuto assumere importanti riforme, ma solo perché in realtà i prodotti denominati in euro tedeschi hanno guadagnato il 21% rispetto alle nazioni non euro, ma anche il 18% all'interno dell'euro, ma questo per ragioni che hanno a che vedere con il costo del lavoro e con la produttività tedesca, per cui è come se loro avessero esportato con una valuta svalutata. E dice Roland Berger all'obiezione: è appunto svalutata perché se fossimo tornati al marco, e se tornassimo al marco, il marco varrebbe di più di questo euro. E lui direbbe, e lui risponde: ma no, perché in realtà a quel punto resta il fatto che l'economia tedesca ha la forza per un'ulteriore svalutazione in termini di maggior produttività e minor costo del lavoro. Questi cosa sono? Sono ragionamenti che indurranno sempre di più i lettori tedeschi, l'opinione pubblica tedesca, i contribuenti tedeschi a immaginare che l'euro forse non è per niente così finalmente acquisito una volta per tutte. Dio non voglia, ma questo rischio c'è. L'Italia deve fare il passo indietro dal burrone, ma deve anche iniziare a tornare in Europa in questo dibattito e a decidere che cosa sia coerente al suo interesse nazionale. Io sono convinto che l'euro sia sacrosantamente utile se gli facciamo seguire l'unificazione dei mercati. L'euro da solo come valuta non sta in piedi, e vedo tutti i segni in Francia come negli altri paesi, per cui andremo alla crisi, purtroppo. Allora, Allora, al di là di come la pensate voi, mettete mano al telefono e iniziate a comporre il numero, il solito numero 800 24 00 24. Sentiamo come la pensa intanto Roberto Perotti. Roberto Perotti insegna economia politica alla Bocconi, editorialista del Sole. Per favore, almeno in questa trasmissione non sono ammesse telefonate ironiche sulla Bocconi, non la Bocconi, troppe da università, eccetera eccetera. Dio preservi i luoghi dell'eccellenza italiana, questa è la mia risposta a chi fa battute su questo tema. Professor Perotti, cosa pensa della possibilità concreta che noi riusciamo a fare il passo indietro dal baratro? Uno, e due, mi interessa anche vedere come lei stima in realtà il dibattito dal punto di vista reale, non dal punto di vista degli auspici in Europa nell'anno prossimo per la tenuta dell'euro, anche a prescindere dalla bomba italiana. Buongiorno intanto a lei. Buongiorno. Dunque, sull'Italia, credo che come tutti ho l'impressione che il governo Monti, il tentativo governo Monti sia un po' la nostra ultima chance, credo che questo più o meno lo stanno pensando tutti. Cosa succederà se dovesse fallire il tentativo di Monti? Insomma, è un po' seguimento del film già visto qualche settimana fa. E andando avanti per quel film è ovvio cosa ci aspetta, il default. Quindi questo ho l'impressione, purtroppo questa è la nostra ultima chance. Sull'Europa io credo che molto dipenderà da cosa succederà alla Germania, in parte alla Francia, all'economia tedesca e francese. E la mia impressione è che mentre i dati americani sono abbastanza buoni e che non ci sia il rischio di una seconda recessione in America, magari verrò smentito tra un mese, ma questa è l'impressione. La mia impressione è che in Europa i dati non siano tanto buoni, i dati tedeschi non siano tanto buoni, la Germania finora ha trainato l'Europa da un punto di vista economico e adesso sembra che stia rallentando, e così altri paesi. Quindi il problema è grosso l'anno 21 se si entrerà in recessione. Entrerà in recessione la Germania. Se questo dovesse succedere, non so bene cosa succederà al resto d'Europa, perché chiaramente il problema del debito pubblico rimarrà con noi. E l'altra domanda che facevo all'inizio sul debito pubblico: quando i mercati si accorgono che c'è troppo debito, in particolare debito pubblico, non è che sia un problema che si elimina in 2 o 3 mesi, perché un governo può ridurre il disavanzo di bilancio del 2-3% del PIL con grossi problemi politici e sociali, ma questo significa ridurre il debito del 2-3% del PIL nell'immediato, chiaramente i mercati non basta. Ridurre l'esposizione delle banche e di altri investitori al debito, come ha detto lei, quello che stanno facendo, è un processo che prende tempo e è molto doloroso, quindi è un problema che rimarrà con noi per lungo tempo. Se poi il punto dell'Europa entrerà in recessione, non so bene cosa succederà. Infatti le correzioni al ribasso ultime la settimana scorsa delle attese di crescita di tutta l'euroarea secondo me danno molto credito, spessore alle parole del professor Perotti. Pensate che se noi siamo accreditati di una crescita del 2012 come Italia dello 0,1, insomma, ma crescita zero, la Germania passa dal 2,9, di cui ancora sono le stime per questo 2011, a uno 0,8, che insomma è una bella piantata, stante il fatto che sono le filiere manifatturiere alla cui testa ci sono imprese germaniche, quelle che oltre poi all'export diretto tedesco intraeuropeo sono i due pilastri attraverso cui poi si muove il faticoso motore della crescita europea. Quindi se questi due pilastri si abbattono di un potenziale superiore ai 2/3 in un solo anno, voi capite che per il resto dei paesi europei è molto più facile per noi andare col segno meno. E in effetti, andando a vedere le correzioni a ribasso degli altri istituti come Goldman Sachs, come JP Morgan, come Morgan Stanley, sono tutte oramai stabilmente verso una crescita italiana tra un meno 0,8 e fino al meno 1,2% di recessione nell'anno prossimo. La forte decelerazione è partita dai paesi avanzati negli ultimi due quarters per via dell'eccesso di debito pubblico sia in America che in Europa, e si è estesa poi anche alla motrice del commercio mondiale, paesi ex emergenti attualmente emersi, che col rallentamento dei mercati in cui vendono sono il loro surplus di prodotti e servizi a basso costo, hanno dovuto rallentare a propria volta. Professor Perotti, ieri mi ha molto colpito anche una vicenda che può sembrare secondaria rispetto agli andamenti dei titoli del debito pubblico, al dibattito in corso su come si forma il governo, ma in realtà rispetto all'importanza del sistema bancario italiano, all'economia italiana, è molto rilevante, visto che sto parlando di Unicredit, la banca più internazionalizzata del nostro paese. Siamo al terzo aumento di capitale nel giro di 2 anni e mezzo, la banca attualmente capitalizza poco meno di 15 miliardi di euro e ha varato un coraggioso, deciso aumento di capitale per oltre la metà della sua attuale capitalizzazione di 7 miliardi e mezzo, ma la cosa che più mi ha colpito è che finalmente, almeno io uso questo avverbio, non so se lei lo condivide, hanno deciso anche di seguire la via, io la chiamo della chiarezza e della trasparenza e del rigore per quello che riguarda dell'abbattimento del goodwill, degli avviamenti. Hanno fatto pulizie per 10 miliardi di euro, se sommiamo i 9,6 miliardi che hanno dichiarato, più la svalutazione della quota di Mediobanca. Perché mi ha molto colpito? Mi ha molto colpito non solo perché è ovvio, questo sì, è l'andamento dei mercati, il terzo aumento di capitale, ne abbiamo parlato più volte, le nuove misure di ricapitalizzazione chieste anche dall'autorità europea, ma quello che mi colpisce è la radicalità della decisione assunta nel frattempo ieri a Unicredit sui goodwill, sugli avviamenti, perché noi abbiamo fatto tutto il consolidamento bancario italiano, cioè la fusione tra istituti diversi, io sono tra i critici, mi è capitato di scrivere e dirlo più volte, di sollevare l'interrogativo su come avvenivano queste fusioni rispetto ai valori di Libero che venivano così assunti con molto spirito amichevole per determinare i pesi degli istituti che si mettevano insieme e secondo me con assoluta miopia nel fatto che tenere poi nei libri quei valori secondo me determinava dei fenomeni difficilmente reggibili, insomma una sfida alle leggi di gravità. Ieri Unicredit fa pulizia su questo e se fosse l'inizio di un processo analogo in tutto il sistema bancario italiano, hai voglia a ricapitalizzazioni, non solo il punto di PIL che ci ha dato l'autorità europea come compito la settimana scorsa. Le chiedo, stare nell'euro da questo punto di vista, oltre a ciò che Monti dovrà fare, speriamolo, gli danno la possibilità di farlo, sul fronte della finanza pubblica, è vero o non è vero che anche poi per i grandi gruppi, per l'economia privata, pretende poi una trasparenza e un rigore, a cominciare da come si fanno gli attivi patrimoniali, se si e grandi banche e come le si regge poi con il capitale proprio, secondo lei? Sì, questo è vero e secondo me non dipende tanto da stare nell'euro o non starci, non vorrei parlare di corda in casa dell'impiccato, però la vicenda di Unicredit, non voglio soffermarmi specificamente su una banca, ma secondo me riflette un problema di fondo che c'è stato in Italia, che è stata la negazione dell'evidenza. E di questo sono responsabili non tanto le banche, perché loro fanno il loro mestiere, le banche di tutto il mondo negano fino all'ultimo momento di avere bisogno di ricapitalizzarsi, non lo fanno solo in Italia, lo fanno ovunque, ma il problema secondo me è stato con i politici e purtroppo con i media italiani, che non sempre purtroppo sono indipendenti dal sistema finanziario e dalle banche, hanno per anni continuato anche per motivi ideologici, hanno continuato a trasmettere la favola che è vero l'Italia ha tanto debito pubblico, ma tutto il resto è completamente sano e molto meglio di tutti gli altri paesi, perché c'è più risparmio delle famiglie, le banche sono sane perché non hanno titoli tossici e possono contare sul risparmio delle famiglie. Il fatto è vero che le banche italiane avevano pochi titoli tossici, nel senso di derivati dal subprime americano, ma erano piene di due cose, e sono piene di due cose: titoli del debito italiano, ovviamente, che hanno i problemi che sappiamo, e poi sono piene di sofferenze, molto più degli altri paesi, per motivi vari, ma il fatto è che hanno molte più sofferenze degli altri paesi. Se mette insieme le due cose, le banche italiane sono messe peggio di molte banche estere, e il fatto che le banche italiane abbiano continuato a perdere il valore in borsa negli ultimi 2 anni, e i media italiani hanno continuato a diffondere la leggenda che fosse dovuto esclusivamente alla speculazione dei cattivi americani. È molto improbabile che per 2 anni la speculazione si accanisca solo perché gli sono antipatiche le banche italiane. Probabilmente il motivo è esattamente quello, che erano piene di titoli di Stato e di sofferenze. Quindi Unicredit ha finalmente riconosciuto l'evidenza, ma il problema di fondo secondo me è la retorica imperante in questi 2 o 3 anni che c'è stata in Italia sul sistema bancario e sull'Italia in generale. Ecco, io credo che anche queste parole del professor Perotti, un po' abrasive, siano giuste, abrasive nei confronti di come si fa informazione, di come si fa informazione da parte dei media generalisti, talvolta anche su quelli specializzati. Non bisogna pensare di essere migliori di nessuno, in particolare su i punti di forza dell'Italia, che sono stati tante volte ripetuti. Qui non si tratta di additare colpe. Il professor Marco Fortis, per esempio, presidente della Fondazione Edison, che passa adesso come il specie di propalatore, no, della tesi, l'Italia è fondamentale, fortissimi, il patrimonio delle famiglie ci dà la certezza della solvibilità. Oggi alcuni lo accusano di essere un po' il capo di questa linea. Io devo dire, il professor Fortis, io lo difendo perché è incolpevole, perché lui elabora dati e scrive cose. Il problema è come gli si ripete a mantra, poi non affiancando a quei dati la realtà verso la quale si stava incamminando l'Italia. È stato un grande fenomeno ipnotico nei confronti del quale l'informazione non può tirarsi indietro. E devo dire che mi colpisce anche in questi giorni, lo ripeto sempre, la quantità di lettere, di mail, di sms, di stizza che arrivano anche dagli ascoltatori nostri qui a Radio 24, perché vedono negli andamenti del mercato, vedono per esempio nel fatto che ieri lo spread è risalito e quindi cioè, tutte palle quelle che avete raccontato sul fatto che erano i mercati a dire no a Berlusconi, è stato un colpo di Stato, un golpe di palazzo, perché tanto lo spread sta risalendo esattamente dov'era. Allora, c'è una percentuale di italiani, che non tocca a me giudicare, ma mi colpisce quanto ampia, che ha introiettato il modo di ragionare della politica, curva sud, curva nord, rispetto ai fatti. E per compiacere questo tipo di atteggiamento, una parte dell'informazione non fa altro che assumere a propria volta questa modalità di analisi dei fatti, la rilancia, la accresce ogni giorno di toni più alti. È così alla fine che un paese va in ipnosi rispetto al fatto che l'euro era sempre più in tensione, che i paesi fondatori dell'euro non riescono a capire che bisogna fare passi avanti con la politica, e che a quel punto noi saremo inevitabilmente andati dove siamo andati, come paese che ha il 24% dell'eurodebito, col 13% del PIL dell'euroarea e con il 23% del totale del nostro debito che va rifinanziato l'anno prossimo, 440 miliardi di cui oltre 200 entro fine del mese, il prossimo marzo. Grazie al professor Perotti, e noi andiamo in pubblicità. E per tornare sul tema Unicredit, che ha molti ascoltatori fatto mandare mail, vi dico solo che questa è, in termini di ricapitalizzazione, è la settima rispetto all'inizio della crisi 4 anni fa in tutto il mondo. Cioè, al di là delle due ricapitalizzazioni monster di Royal Bank Scotland, che complessivamente tra in due tranche nel 2008, ad aprile e a ottobre, poi sono ammontate ad oltre 48 quasi miliardi di dollari complessivamente, quindi l'era di Dio, e poi a quella del Lloyds. Lloyds hanno ricapitalizzato per 22 miliardi nel 2009, ancora nel 2009 e HSBC per 19 miliardi e mezzo, la stessa cifra di Fortis. E poi UBS 15 miliardi erotti, come Deutsche Bank 14 miliardi, ma poi in realtà viene come ammontare, se lo facciamo in dollari, 7 miliardi e mezzo di euro di ricapitalizzazione decisi ieri da Unicredit, sono pari a 10 miliardi virgola 3 di dollari, quindi è una ricapitalizzazione molto importante, ripeto, è della banca più internazionalizzata d'Italia, quindi ha un significato di manifesto di trasparenza la decisione assunta ieri dal management di Unicredit. Un'altra statistica per capirci, invece, per tornare alle difficoltà con cui ha prese il professor Monti, guardiamo la media della crescita del PIL pro capite negli anni 2003-2012. Quella tedesca, il PIL pro capite 2003-2012 ha avuto un aumento PIL pro capite dell'1,3% anno, in Giappone dello 0,9%, negli Stati Uniti 0,7%, media dell'Eurozona 0,7%, Francia 0,6%, Regno Unito 0,6%, Spagna 0,4%, compresi gli ultimi due anni terribili di crisi con l'esplosione della disoccupazione al 27% in Spagna, compresi quelli, la media della crescita del PIL pro capite dal 2003 è dello 0,4%, arriviamo all'Italia. Crescita del, in termini reali del PIL pro capite tra gli anni 2003 e 2012, meno 0,5% in termini reali. Ecco, questo è il problema che tutti tendono a dimenticare rispetto ai conti pubblici, ma questo è il problema della produttività italiana e questo è un problema che non si risolve con la bacchetta magica, ma con cui Monti si dovrà confrontare. Capite perché poi i mercati rimangono scettici. In questa seconda parte della trasmissione abbiamo con noi il direttore di Libero, Maurizio Belpietro. Buongiorno direttore. Buongiorno. Gad Lerner, giornalista, conduttore dell'Infedele sulla 7. Buongiorno Gad Lerner. Buongiorno. Belpietro, non è che questo balletto politici o non politici nel governo rischia di indebolire ulteriormente questo tentativo e di non avere né l'una né l'altra cosa, cioè significa che poi alla fine potrebbero derivarne dei tecnici, diciamo, dei pesi ancora più lievi rispetto a tecnici che invece hanno esperienza, conoscenza, non sono solo degli esperti accademici, ma hanno anche messo le mani in pasta nella vita e negli interessi della vita pubblica, negli interessi italiani. Non c'è il rischio di andare verso una lievità un pochino un po' eccessiva dei tecnici, così continuando a sfogliare la margherita? Che pensa, direttore? Ma il rischio effettivamente c'è, però io non capisco, cioè nel momento in cui si sceglie di fare un governo tecnico mi sembra evidente che nel governo tecnico ci stanno i tecnici, non ci stanno i politici, anche perché se ci stanno i politici ci stanno inevitabilmente le segreterie dei partiti, ci stanno tutte le ambizioni dei leader, ma anche le divisioni. Cioè qui si è fatta un'operazione per cui si è stabilito di affidare a una parte terza che non è più né la destra né la sinistra, una parte terza esterna al Parlamento, la gestione della crisi con l'avallo del capo dello Stato. A questo punto io credo che dovrebbe Mario Monti andare spedito verso un esecutivo tecnico. Non si tratta di pesi lievi, perché i tecnici non è che necessariamente sono pesi lievi, semmai se c'è bisogno di qualcuno che conosca la procedura parlamentare, beh, lì si possono trovare degli esperti che stanno addirittura all'interno del Parlamento, che possono aiutare Monti, che non ha mai ovviamente fatto il politico, non ha mai avuto a che fare con i regolamenti burocratici, ma anche così con le norme della politica, e quello lo può aiutare. Ma io non, la commistione di come vorrebbe Monti, di un dei tre segretari, cioè Bersani, Casini e Alfano, dentro il governo a fare i ministri, già mi sembra un po' strana, perché questi quasi non si salutano, non si salutavano fino a ieri, immaginare che adesso vadano d'amore d'accordo, cioè, è difficile. È più facile invece pensare a un percorso chiaro di riforme e di provvedimenti da prendere, in particolare quelli richiesti dall'Unione Europea, condivisi da tutti, e a questo punto poi il governo governa, porta in Parlamento le proprie decisioni, e questi, insomma, se sono quelle che hanno concordato, le approvano. Secondo lei il peso del rapporto tra Lega e PDL, quanto la Lega, con la posizione che ha preso, che bada alla campagna elettorale, a quando si andrà al voto, riannuncia l'apertura del Parlamento padano, e tutto sommato su questo non mostra esitazioni, al di là del caso Gentilini che ieri è scoppiato, ma secondo lei quanto questo è in grado di condizionare il PDL, e quanto è in grado di fargli ripetere un po' quello che io ho considerato sempre un errore, cioè regalare per esempio il governo Dini all'altra parte dal punto di vista del PDL, che mi sembra un errore temibile per il centrodestra, ma che ha qualche possibilità di essere ricompiuto? Lei che dice? Ma io non penso che sia ricompiuto, mi sembra che invece l'adesione del PDL, dopo ovviamente i mal di pancia iniziali, sia tutto sommato abbastanza convinta. Hanno detto di sì a Monti, dicono fai il programma deve essere quello che ci richiede l'Unione Europea e non altro, perché altrimenti allora interessi in una fase diversa, cioè quella politica. Noi ti appoggiamo convintamente, non entriamo, ma ti appoggiamo convintamente. Il problema mi sembra non tanto di ripetere gli errori del governo Dini e neanche di inseguire la Lega, perché in questo momento la Lega ha fatto una chiara scelta, dice sto all'opposizione, cerco di recuperare credibilità dopo insomma questo periodo che certo non è stato dei più felici per il Carroccio, e quindi mi preparo alle elezioni. Ma il problema mi pare più dall'altra parte del Partito Democratico, che pur dimostrando grande entusiasmo dicendo sì, grande, però in realtà ha molti problemi, perché mentre il PDL in fondo sulla linea dell'Unione Europea c'è già arrivato, e il PD non c'è arrivato, anzi gran parte della propria base è assolutamente contraria, e anche dei propri dirigenti. Basta sentire cosa dice Fassina, ma basta leggere oggi per esempio anche Orfini, che dice che la linea di Ichino sulla modernizzazione del mercato del lavoro è una linea di minoritaria, e si capisce che il PD rischia di spaccarsi. La Camusso apre sulle pensioni ma chiude totalmente sulla modernizzazione del mercato del lavoro. Quindi come faranno a tenere la barra ritta e ad appoggiare il governo se questi farà i provvedimenti annunciati? Io non lo so. Già qualcuno all'interno della maggioranza e non appartenente al centrodestra, cioè, dice qui il rischio vero è che fra due mesi il PD è costretto a uscire e a abbandonare la maggioranza, lasciandola al terzo polo e al centrodestra. Allora, grazie al direttore di Libero e buon lavoro a Belpietro. Lerner, la mia domanda è questa: io temo molto l'eccesso di nostro politicismo, ciò di cui si grava, insomma questi giorni erano prevedibili, le pagine dei giornali erano più che prevedibili, questo balletto sulla lista, questo tema, i politici sì, i politici no. Temo che tutto questo poi sfumi rispetto al punto di fondo, che è stato affidato come un'emergenza nazionale, io penso senza precedenti purtroppo nella storia repubblicana, l'Italia che finisca alla sbarra di fronte all'opinione pubblica e ai governi di tutto il G20 come una specie di bomba atomica che sta per esplodere. Tante volte siamo stati costretti a chiedere aiuto, lo ripeto sempre, ma mai in queste condizioni proprio di perdita verticale, di credibilità e di equivalenza totale Italia uguale bomba. Ecco, detto questo, a volte mi viene da pensare che mi piacerebbe che poi da esperienze di questo tipo, di governi dei tecnici, a cui poi la politica è stata costretta ad affidarsi quando aveva esaurito le sue carte e perso la sua credibilità, perché la stessa cosa avvenne con il governo Ciampi e poi alla fine della Prima Repubblica, mi piacerebbe che una delle elezioni successive al passaggio tra Prima e Seconda Repubblica questa volta tentassimo di capirla. È un po' spetta anche a noi che facciamo informazione. Qual è la lezione? Prima parlavo della lezione del governo Dini, adesso volevo dire la lezione del governo Ciampi. Sarebbe poi anche bello auspicare che questi governi tecnici, oltre a essere chiamati all'impossibile compito di cavare le castagne dal fuoco in poco tempo, come la politica non ha fatto per anni creando le basi per questi guai, determinassero poi anche delle auspicabili modifiche dell'offerta politica, come non è avvenuto per tanti versi tra Prima e Seconda Repubblica, perché poi intervenne Berlusconi all'epoca a cambiare le cose radicalmente, e sono cambiate tanto che per 17 anni quella è stata la musica. E adesso ti chiedo di rispondere subito dopo che andiamo nelle formazioni stradale, di immediatamente cominciare quando torniamo in collegamento, dicendo: secondo te è pensabile che questa volta, intorno alla serietà, al rigore del professor Monti, a questo stile nuovo che molti vedono anche con un bel sospiro di sollievo rispetto alla perdita di credibilità che ci avevamo su tutta la scena mondiale con Silvio Berlusconi da un anno e mezzo a questa parte, possa determinarsi poi anche alla fine una modifica dell'offerta politica rispetto a come oggi centrosinistra e rispetto all'implosione-esplosione che sembra di cui sembrano vedersi i segni nel centrodestra? Eccoci con Lerner, è a te il microfono. Buongiorno Oscar e buongiorno a tutti. Hai parlato di tuo timore che la politica non sia all'altezza della gravità della situazione. Io ti confido uno stato d'animo che non è di timore, è di vero e proprio spavento, di paura, e non credo di essere condizionato soltanto dalle suggestioni di due giornate di fila in cui le borse vanno giù e lo spread schizza di nuovo oltre i 500 punti. Ho la netta sensazione che la nostra classe politica ancora non abbia percepito che l'Italia si trova in una situazione pericolosa, la più pericolosa del dopoguerra, sull'orlo del fallimento, ma per davvero, che ci sono delle forze significative che si sono fatte i loro conti in tasca e considerano Berlusconi non Berlusconi, Monti o non Monti, che un default italiano, provocando anche la crisi dell'Unione Monetaria Europea, può convenire loro o comunque è nell'ordine delle probabilità crescenti. Allora, se questo è il livello della gravità, potete bene immaginare quanto me ne importi il calcolo se il PDL si spacca dalla Lega e se il PD si divide in due. E credo che il vero problema invece che deve affrontare Monti è quello della revisione dei suoi stessi parametri, delle sue medesime ricette. Facevi i paragoni con i governi tecnici di circa 20 anni fa o di poco meno di 20 anni fa, perché in fondo già il governo Amato Lo era, sì. Lo era di fatto quando fece quella prelievo forzoso e la svalutazione, poi ci fu Ciampi, poi ci fu Dini, lo stesso Prodi entrò come tecnico, anche se poi ha assunto una dimensione politica. Ma noi dobbiamo disilluderci, pensare che il problema si risolve dopo il fallimento di Berlusconi e della politica con il revival di quella stagione è davvero ingenuo. Se non altro, io l'ho avvertito nel mondo che più conosco, che è il mondo della sinistra, il mondo sindacale, il mondo del lavoro dipendente, che nel passato appoggiò gli esperimenti dei tecnici. Tu dicevi, facendoci anche la bella figura per cui Dini fu visto appunto più come un'operazione di svincolo e di uscita dal centrodestra, ma adesso queste sono veramente sciocchezzuole, perché il problema è che sta montando una furia contro, che poi naturalmente si scaglia contro degli stereotipi, la Goldman Sachs, il governo mondiale, esatto, della Goldman Sachs, piuttosto che della grande finanza nascosta che si esprime attraverso i suoi uomini che diventano capi di governo. In contemporanea, dopo il G20 di Cannes, nel fine settimana vengono fatti cadere il governo d'Italia e di Grecia e vengono sostituiti i leader politici con due leader, Papademos e Monti, evidentemente legati a quel milieu, a quell'establishment finanziario. Tutte cose vere, sono fatti reali, ma che danno luogo a una furia e a una contrapposizione trasversale. Guardate, ieri sera all'Infedele Guido Viale, mio amico, leader del 68, economista favorevole a un default pilotato e selezionato rappresentativo di un mondo degli indignados, diciamo, usava argomenti non così dissimili da quelli del leghista presente, e la Padania ha cominciato a dire opponiamoci al governo dei massoni internazionali. Ora, che ci siano le coloriture inconsapevolmente antisemite novecentesche del complotto demo pluto giudaico massonico, o viceversa una linea più esplicitamente anticapitalistica, Mario Monti dovrà fare i conti con questo problema, e cioè che le classi subalterne di questo paese, i ceti deboli, sono 30 anni che hanno decurtazioni di reddito, perdite di posto di lavoro, che non hanno, come dire, scambiato i propri sacrifici con una maggior una più giusta ripartizione degli oneri. E quindi un'operazione di puro risanamento finanziario è impensabile se non ristruttura molto profondamente gli assetti proprio della, della distribuzione della ricchezza nazionale. È difficilissimo, mi rendo conto, ma è lì che noi ci giochiamo o meno una partecipazione, un consenso popolare a una linea di rigore. Questa vi potrà essere sembrato ad alcuni lungo il ragionamento di Gardner, ma guardate che ha risposto esattamente alla domanda. Io gli avevo chiesto: si può pensare a una modifica dell'offerta politica? Lui ha descritto le difficoltà che la politica trasversalmente offre, non solo per i giochetti della politica, ma anche perché c'è un problema reale che riguarda alcuni milioni di italiani, quelli col reddito reale a segno meno in questi anni. E allora il problema è: si potrà contare su un maggior successo del tentativo Monti e poi magari anche su modifiche dell'offerta politica se si aggredisce questo punto di fondo? Io sono molto d'accordo, qui non è un esercizio di matematica finanziaria sul debito pubblico, sulla migliore imposta o sulla migliore dismissione pubblica che abbassa il totale del debito. Qua il problema è su questioni come per esempio il mercato del lavoro, gli strumenti di integrazione al reddito, il peso fiscale su i giovani che non hanno lavoro, su questioni di questo tipo che toccano nel vivo quei milioni di italiani di cui parlava Gad Lerner, che sono le vittime, ma non solo di questi 4 anni di crisi, sono le vittime di questa maniera squilibrata nel nostro paese, sempre più squilibrata da 15 anni a questa parte, di prenderci i pesi della nostra mancata crescita. Lì c'è la sfida più importante, è una sfida che un tecnico vince meglio di un politico, può essere, perché è una sfida di responsabilità nazionale. E a questo punto io credo che Gardner ci abbia aperto la testa su un punto che fino a questo momento, in questi giorni, non avevamo toccato abbastanza. È vero che bisogna guardare in fondo al cuore e al portafoglio non solo degli italiani, ma al cuore, e lo facciamo ancora una volta con le note conclusive di questa canzone preoccupante, certo, che è una canzone che si interrogava sui destini della civiltà occidentale, che era appunto The End dei Doors. Io mi rendo conto che oggi non sono stato rispettoso delle tante telefonate che erano qua e mi scuso con voi ascoltatori per questo. Vorrei solo che vi entrasse in testa che quanto più noi siamo vicini a un baratro, tanto più l'Italia ha la capacità di limitarsi a non prendere questa strada, ma prendere un'altra. Forza Monti! A domani, Linea Generale Radio.